35 Pegni d'amore. La gran sala dell'abitazione di Legree era una stanza vasta provvista di un ampio camino. Già un tempo le sue pareti erano state adorne di una carta magnifica, la quale ora, sbiadita e lacera, pendeva a brani lungo le pareti coperte di muffa e di nitro. Quel luogo aveva l'odore malsano, misto di umidità, di sudiciume e di putridezza che non di rado si sente nelle vecchie case abbandonate. Legree stava intento a preparare un bicchierone di pons, versandosi dell'acqua bollente da un brico col becco rotto e mormorava fra i denti. «Maledetto Sambo! Non mancava se non che gli venisse a metter guai tra me e i nuovi lavoranti. Quel Tom non potrà lavorare per una settimana e proprio nell'urgenza del raccolto!» «Colpa vostra!» disse una voce di dietro alla sua seggiola. Era Cassie, entrata mentre egli discorreva fra sé. «Ah, sei tu, diavolo di femmina, ritorni, eh?» «Sì, ritorno», disse ella placidamente. «Ma voglio fare tutto ciò che più mi aggrada. Non sperarlo, vecchia bestia. Ti manterrò la mia parola. Se non vuoi condurti bene, andrai al quartiere degli schiavi e lavorerai come gli altri. Oh, preferirei 10.000 volte vivere nella più immonda buca del quartiere», rispose ella, «che sotto i vostri artigli». «Ma sotto i miei artigli ci sei già», riprese a dire Legree con una feroce sghignazzata, «e questo è il buono. Ora siedi lì, mia cara, e ragioniamo un poco». «Bada, Legree», esclamò la donna con uno sguardo che scintillò di una luce sinistra terribile. «Tu hai paura di me», soggiunse deliberatamente. «Hai motivo di averla, ma sii cauto, perché sento dentro me il diavolo che mi tenta». Ella proferì queste ultime parole con voce sibilante presso l'orecchio di lui. «Vattene! Io credo sull'anima mia che tu dica la verità!» esclamò Legree respingendola da sé, guardandola con aria spaventata. «Del resto», soggiunse poi, «perché non mi tratti amichevolmente come per l'innanzi?» «Per l'innanzi?» disse ella con amarezza, e si interruppe perché un cumulo di sentimenti cozzanti si le troncò la parola. Cassie aveva sempre avuto sopra Legree quel potere che una donna forte e appassionata suole esercitare sull'uomo più brutale, ma ella era divenuta ogni ora più irritabile e intollerante nell'orribile gioco della sua servitù, e questa irritabilità si convertiva talvolta in delirio, in pazzia. Ciò era oggetto di spavento a Legree, il quale, come tutti gli uomini ignoranti e rozzi, provava un superstizioso orrore dei mentecatti. Quando egli aveva condotto a casa Emelina, il sentimento della dignità oltraggiata, che è proprio della donna, risorse più che mai vivo nel cuore di Cassie, ed ella prese le parti della giovinetta, onde nacque una contesa serissima tra lei e Legree. Questi, nel suo furore, aveva giurato che la porrebbe al lavoro dei campi se non volesse star quieta. Cassie, con orgoglioso disprezzo, dichiarò che ella andrebbe ai campi e vi lavorò una giornata, come narrammo, per far vedere come disprezzasse altamente quella minaccia. «Io bramo che tu ti porti convenevolmente», disse Legree. «Oh, vi sta proprio bene parlare così. E che avete fatto voi poco fa? Non avete avuto nemmeno il buon senso di risparmiare uno dei vostri migliori lavoranti, ora che siamo al raccolto? E perché? Solo per soddisfare il vostro temperamento diabolico. Confesso che ho avuto torto di lasciare che quella contesa si infiammasse tanto, ma giacché colui faceva l'ostinato, bisognava domarne l'orgoglio». «Ah, per me credo che non potrete domarlo». «Non potrò domarlo?» disse Legree balzando in piedi stizzito. «Sarei curioso di vedere anche questa. Sarebbe il primo negro che mi abbia resistito. Gli romperò tutte le ossa, ma cederà». In quell'istante l'uscio si aprì ed entrò Sambo. Questi, facendo inchini, si avanzò con in mano un piccolo involto di carta. «Che c'è, sozzo cane?» disse Legree. «È qualche cosa di magia». «Che dici? Qualche cosa che le streghe danno ai neri e ciò li preserva dal dolore quando sono frustati, gli pendeva al collo da un cordoncino nero». Come la maggior parte degli uomini empi e crudeli, Legree era superstizioso. Prese la carta e la svolse con aria di inquietudine, ne uscì un dollaro d'argento e una lunga e nitida ciocca di capelli biondi, la quale, come se fosse animata, gli si attorcigliò alle dita. «Dannazione!» gridò egli con irritazione improvvisa, battendo i piedi e strappandosi rabbiosamente quei capelli dalle dita come lo scottassero. Dove li hai presi? Buttali via, bruciali! Gettò i capelli nel fuoco e soggiunse: Perché me li hai portati qui? Il nero era rimasto tutto sbalordito e a bocca aperta. Cassie, che stava per andarsene, si fermò e guardò Legree con stupore. Sia la prima e l'ultima volta che mi porti di queste cose diaboliche, se no, disse egli mostrando il pugno a Sambo. Che aveva mai Legree? E che c'era in un semplice ricciolo di capelli biondi che potesse spaventare quell'uomo avvezzo a praticare ogni sorta di crudeltà? Per rispondere a ciò, bisogna che torniamo indietro, dando al lettore un cenno della vita di Legree. Per quanto crudele e reprobo sembri ora quest'uomo ateo, fu già portato sul seno di una madre, cullato al canto di preci e d'inni devoti, e la sua fronte, ora sì spaventosa, fu bagnata al sacro fonte del battesimo. Nella sua infanzia, una donna dai capelli biondi lo aveva condotto in chiesa al suono giulivo delle campane della domenica per adorare e pregare. La Nuova Inghilterra è il paese dove quest'unico figlio era stato allevato dalla madre con infaticabile amore. Nato da un padre di carattere duro, verso il quale la mite donna aveva adoperato invano ogni arte di un amore immenso, Legree si era avviato sulle tracce paterne. Impetuoso, indisciplinato, arrogante, egli disprezzò tutti i consigli di sua madre, né voleva udirne i rimproveri, e in età giovanissima fuggì da lei per andare in cerca di fortuna sul mare. Una sola volta poi tornò a casa e allora sua madre, con tutta la tenerezza di un cuore che ha bisogno di amare, né altro aveva da poter amare se non lui, gli stette attorno e si sforzò con preghiere e ardenti supplicazioni di strapparlo dalla rea vita che menava per il bene eterno dell'anima sua. Fu quello per Legree giorno di grazia. I buoni angeli lo chiamarono. Egli quasi si lasciò persuadere e la misericordia divina gli stendeva le braccia. Il cuore di lui si ammolliva e in lui accadeva una lotta, ma il male vinse ed egli resisté con tutta la forza dell'aspra sua indole agli impulsi della propria coscienza. Tornò a bere, a bestemmiare e divenne più scapestrato e più brutale di prima. Una notte in cui sua madre, nell'eccesso della disperazione, era si gettata alle sue ginocchia, egli la respinse facendola cadere sul pavimento e corse alla sua nave proferendo orrende imprecazioni. Non molto dopo, Legree, in mezzo a un'orgia notturna, ricevette una lettera, l'aprì e una lunga ciocca di capelli ne uscì fuori e gli si attorcigliò alle dita. La lettera diceva che sua madre era morta e che nell'agonia ella gli aveva perdonato e dato la sua benedizione. C'è una specie di tremenda e profana magia del male che cambia le più soavi, le più sante cose in fantasmi pieni di orrore e di spavento. Quella madre pallida e amorosa, quelle preci estreme e il suo tenero perdono fecero su quel cuore perverso l'effetto di una sentenza di dannazione e gli destarono il pensiero del giudizio finale e dell'ira celeste. Egli bruciò i capelli, bruciò il foglio e quando lo vide arricciarsi e crepitare tra le fiamme, rabbrividì internamente pensando alla pena del fuoco eterno. Tentò di cacciar via col bere e coi bagordi le memorie importune, ma spesso fra le tenebre della notte, in cui una calma solenne costringe l'anima del malvagio a trattenersi con sé medesima, egli vide, o gli parve di vedere, il pallido volto di sua madre sorgergli accanto al letto. Sentì i morbidi capelli di lei circondare le sue dita finché, coperto di un sudore freddo, si levò tutto inorridito. Oh voi, che maravigliate di leggere nel Vangelo che Dio è amore e che è un fuoco divorante. Non vedete come per l'anima indurita al male il più perfetto amore diviene la tortura più orribile, il suggello e la sentenza della più nera disperazione? Maledetto! Brontolò Legree nel tracannare il suo pons. Dove mai ha preso questa ciocca di capelli se non somigliasse tanto all'altra che credevo di avere dimenticata? Il diavolo mi porti se io ammetterò mai più che si possa dimenticare alcuna cosa. Perdizione! Sono solo! Che voglio chiamare Melina, ella mi detesta, la monachella. Che importa a me, la voglio qui. Uscito dalla sala, egli si trovò in una vasta anticamera, donde ascendeva una scala a chiocciola. Legree Si fermò a piedi quella udendo cantare una voce, cosa che gli parve strana e fantastica a quell'ora in quella vecchia, desolata abitazione. Udite, chi canta? Una voce incolta ma patetica cantava un inno comune fra gli schiavi. Oh, quante lacrime la terra avrà quando a noi giudice Cristo verrà. Ragazza maledetta! Esclamò Legree. Voglio strozzarla! E Melina! E Melina! Gridò aspramente. Ma ebbe un bel chiamare. L'eco sola gli rispondeva in suono beffardo e la voce soave continuò. Ah, scarso il numero fia degli eletti, saranno i reprobi, qual vasto mar, fra le dolci anime, fra i cari petti, ogni bel vincolo si deve spezzar. E più chiaro e vibrato si udiva per le stanze deserte il ritornello. Ah, quante lacrime la terra avrà quando a noi giudice Cristo verrà. Legree si fermò. E ben si sarebbe vergognato di dirlo, ma grosse gocce di sudore gli cadevano dalla fronte e il cuore gli palpitava con grandissima veemenza. Egli credette anche di scorgere un'ombra bianca che si sollevava con una smorta luce nella camera e lo prese un brivido al pensare che gli potesse a un tratto apparire lo spettro di sua madre. «Olà!» disse Legree battendo il piede e fischiando ai suoi cani. «Svegliatevi su e tenetemi un po' di compagnia!» Ma i cani aprirono appena gli occhi sonnolenti e subito li richiusero. Bisogna che io faccia venire Sambo e Kimbo e che si cantino e ballino qualcuna delle loro danze infernali per cacciare via gli orribili pensieri che mi assediano. E preso il cappello, uscì sulla veranda e diè fiato al corno con cui soleva chiamare i due neri aguzzini. Spesse volte Legree, quando era di buon umore, li faceva venire nella sala e, dopo averli riscaldati con forti liquori, si dilettava a farli cantare, ballare o combattere tra loro, secondo il suo capriccio. Tra l'una e le due, dopo mezzanotte, quando Cassie tornava dalla sua visita di umanità, intese le grida e gli urli selvaggi, il battere delle mani e i canti misti all'abbaiar dei cani, salì sopra la veranda e guardò nella sala. Padrone e schiavi, in uno stato di ubriachezza furiosa, cantavano, urlavano, strillavano, rovesciavano le seggiole e si facevano l'un contro l'altro mille orribili smorfie. Ella appoggiò la mano sui regoli della persiana e li guardò fissamente. I suoi occhi esprimevano in quel mentre un'infinità di angosce, di disprezzo e un'amarezza indefinibile. Sarebbe poi veramente un peccato il liberare la terra da un mostro simile, disse ella tra sé. Indi, prestamente, entrò per un uscio di dietro e, salita che ebbe la scala, andò a bussare alla cameretta di Emelina. 36. Emelina e Cassie. Cassie trovò Emelina piena di spavento, rannicchiata nell'angolo più nascosto. All'apparire di lei la giovinetta si scosse tutta e fu in piedi, ma poi, visto chi era, le corse incontro e, prendendola per un braccio, disse: «Oh, siete voi, Cassie, quanto son contenta che siate venuta! Io temevo che fosse, se sapeste che fracasso spaventevole c'è stato giù al piano inferiore tutta la sera!» «Lo so», rispose Cassie, «l'ho udito più volte. Ma ditemi, Cassie, non potremmo fuggire di qua, in mezzo ai pantani, fra i serpenti, non importa dove, non potremmo ricoverarci in qualche luogo?» «In nessuno», rispose Cassie, «tranne sottoterra. Non avete mai tentato di fuggire?» «Ho veduto molti provarvi, sì, e so quello che ci si guadagna. Ah, io vorrei vivere piuttosto in mezzo ai pantani e nutrirmi della scorza degli alberi. I serpenti non mi fanno paura. E poi preferirei mille volte avere vicino a me un serpente che è lui!» esclamò Emelina con fuoco. «Vi furono qui molti della vostra opinione», replicò Cassie. «Ma voi non potreste rimanere nei pantani. I cani verrebbero sulle vostre orme e vi ricondurrebbero qua. E allora...» «Ebbene, che farebbe allora?» chiese la giovinetta ponendo ansiosamente gli occhi su Cassie. «Non ve lo dirò, inorridisco al solo pensarvi, e vedete, Dio solo sa quel che accadrà domani se il povero Tom continua come ha cominciato.» «Che orrore!» esclamò Emelina col volto coperto di un pallore mortale. «Oh, Cassie, che farò? Che farò io? Consigliatemi!» «Quel che feci io stessa per il meglio, ragazza mia. Fate quel che siete forzata di fare e consolatevi, odiando e maledicendo. Egli voleva costringermi a bere la sua detestabile acquavite, disse Melina. Io la borro tanto. Fareste meglio a berla, rispose Cassie. Io pure la detestavo e ora non potrei farne a meno. Bisogna pure avere qualche cosa. Dopo averla bevuta, qualunque cosa avvenga, non vi parrà più tanto terribile. Mia madre era solita dirmi che non bisogna bere mai bevande di spirito. Vostra madre ve lo diceva, esclamò Cassie pronunziando con amara enfasi la parola di madre. Ah, a che giovano le esortazioni materne. Voi foste comprata e pagata e l'anima vostra appartiene al vostro possessore, così va il mondo. Credete a me, bevete dell'acquavite, bevetene a più non posso e ciò vi renderà più agevole ogni cosa. Oh, Cassie, abbiate compassione di me. Compassione di voi? Non la sento forse. Non ho io una figlia, Dio sa dove ella è e a chi ora appartiene. Ella cammina sulle orme di sua madre, suppongo i suoi figli la seguiranno del pari. È una maledizione che non avrà mai fine. Io vorrei non essere nata, disse Melina stringendosi fortemente le mani. Questo è in me un antico desiderio, riprese Cassie, che divenne ormai un'abitudine. Io morrei se ne avessi il coraggio, disse lei, fissando gli occhi nell'ombra con quella tetra calma di un dolore disperato che era diventata la sua consueta espressione. Oh, il suicidio è un peccato, esclamò spaventata Melina. Non so perché, non mi par cosa si empia come tante altre che facciamo ogni giorno, ma quando io ero in convento, le suore mi dicevano cose tali che mi fanno temere la morte. Se almeno ella fosse il fine di noi, allora. Emelina si voltò altrove e si nascose il viso con le mani. Mentre le due donne conversavano tra loro, l'egrè, sopraffatto dalla crapula, si era addormentato nella camera sottostante. Non era solito ubriacarsi, la sua tempra rozza e robusta poteva comportare un continuo eccitamento che avrebbe logorato e sfinito una complessione più debole, ma la sua profonda oculatezza lo avvertiva di non abbandonarsi che raramente a un eccesso di bere che gli facesse perdere il dominio di se stesso. Tuttavia, quella notte, nei suoi sforzi febbrili per cacciare dalla mente le funeste memorie, argomento di rimorsi che nel suo cuore risorgevano, aveva cioncato più del solito, per modo che, accomiatati i due aguzzini, cadde sopra una seggiola e fu subito profondamente addormentato. Come mai l'anima del malvagio osa avventurarsi nel mondo fantastico dei sogni, in quella regione i cui limiti indefiniti sono così prossimi alla scena misteriosa di un giudizio finale? Legree sognava. Nel suo letargo grave e febbrile, gli sorse accanto una forma velata e stese una mano fredda e leggera su di lui. Gli parve di ravvisarla e quantunque quella faccia fosse velata, il sangue gli si agghiacciò per l'orrore. Gli parve poi che quella ciocca di capelli gli si avvolgesse intorno alle dita, che salisse, salisse, lo stringesse al collo sempre, sempre più, talché gli veniva meno il respiro, che strane voci gli bisbigliassero all'orecchio, voci che lo facevano rabbrividire. Gli pareva poi di trovarsi sull'orlo di un abisso spaventevole, di brancolare, di dibattersi in una mortale agonia, mentre mani nere sorgevano dal profondo, lo afferravano per trarlo giù e Cassie, sogghignando, gli veniva a tergo e gli dava la spinta. Si alzò poi dinanzi ai suoi occhi la solenne figura velata e si trasse il velo da un lato, era sua madre. Si allontanò da lui e cadde giù, giù nel profondo, in mezzo a un frastuono confuso di grida, di lamenti, di risa sgangherate, infernali, e Legree si svegliò. La rosea tinta dell'aurora penetrava tranquillamente nella sua camera. La stella mattutina, adorna del solenne, divino suo raggio, guardava da un cielo serenissimo sul figlio della colpa. Oh, come il sollevarsi del giorno è circondato di maestà e di bellezza, quasi volesse dire all'uomo insensato: contempla, tu hai ancora una speranza, soffri per la gloria immortale. Questa voce si manifesta in tutte le lingue. Soli, Il superbo e il malvagio non son capaci di intenderla. Legree si destò con una bestemmia e una maledizione, che erano per lui l'oro e la porpora del sole nascente, che gli importava della splendidezza di quell'astro che il figliuolo di Dio ha quasi fatto suo emblema, simile a un bruto, e gli vedeva senza comprendere. Si levò, vacillando, si mesciò un bicchiere di acquavite e ne beve la metà. «Che notte d'inferno ho passata!» disse egli a Cassie che entrava dall'uscio opposto. «Ne avrete di simili per molto tempo», rispose ella rudemente. «Che vuoi dire, strega?» «Lo saprete uno di questi giorni», rispose Cassie con accento uguale. «Per ora, Simone, avrai un piccolo consiglio da darvi». «E va alla malora!» «Il mio parere è», disse la donna con fermezza, mentre rimetteva in ordine le cose della sala, «che lasciate tranquillo Tom. Che te ne importa? A dir vero non lo so nemmeno io. Se volete sprecare 1200 dollari per uno schiavo e poi renderlo inabile al lavoro nell'urgenza del raccolto e affare che vi riguarda. Se il vostro raccolto sarà sul mercato inferiore a quello degli altri, perderete la scommessa, credo. Tompkins riporterà la palma e voi sborserete il vostro denaro». Cassie toccava con accorgimento l'unica corda vibrante in quel bruto. «Ebbene», disse Legree, «lo lascerò in pace, ma egli mi domanderà perdono e prometterà di far meglio». «Non vi consentirà», rispose Cassie. «Come no? Ma no, di certo. Vorrei sapere il perché, signora mia», disse sdegnatamente Legree. «Perché egli operò bene, e lo sa, né voi gli farete dire che operò malamente. E chi si cura di quello che gli sa? Il negro dirà quanto io gli impongo, o voi perderete le vostre scommesse sul raccolto del cotone, allontanando lui dal campo quando più urge il lavoro. Oh, ma egli cederà, sì, cederà. Non so forse che cosa sono i negri. Oggi egli sarà umile e mansueto al pari di un cagnolino». «No, no, Simone. Voi non lo conoscete ancora bene. Potete ucciderlo a fuoco lento, ma non gli strapperete una ritrattazione». «La vedremo. Dov'è egli?» disse Legree, pronto a uscire. «Nel camerone degli scarti, dentro il magazzino». La luce solenne dell'alba si mostrava già attraverso il finestrino della povera stanza dove Tom giaceva, e là, come discesa sui raggi della stella mattutina, giunse fino al cuore di lui questa voce. «Io sono il rampollo e la discendenza di Davide, la luce e la stella del mattino». I misteriosi avvertimenti e le intimazioni di Cassie, lungi dall'abbattere il suo coraggio, l'avevano rinvigorito, poiché gli erano sembrati l'eco di una voce celeste. Tom non sapeva se il giorno nascente sarebbe quello della sua morte, e il suo cuore, riboccante di una gioia solenne, pieno di sante aspirazioni, batteva più forte al pensiero che forse gli stava per vedere in tutta la sua gloria colui che era il suo tutto, il suo sostegno quaggiù, e che prima del tramonto del sole potevano apparire ai suoi occhi le corone, le palme, le arpe, il trono splendidissimo circondato di iride sempre raggiante, e la moltitudine dei santi cinti di bianche vesti immacolate, le voci dei quali somigliano a quelle di molte acque. Però egli udì, senza rabbrividire né tremare, la voce del suo tiranno. «Ebbene, ragazzo», gli disse Legree, percuotendolo sdegnosamente col piede, «come ti trovi? Non t'avevo detto che potrei fartene vedere più d'una? Che te ne pare? Di, ti garba ciò, bel Tom? Tu non sei di buon umore da ieri, eh? Guarda un po' se ora puoi far dono a un povero peccatore di una tua predicuccia. Tu ne avresti il desiderio anche oggi, non è vero?» E qui diede in uno scroscio di risa beffarde. «Su, alzati, animalaccio!» soggiunse poi Legree dandogli un altro calcio. Ma un uomo mezzo macolato e rifinito come era Tom non poteva eseguire così facilmente quel brutale comando. E intanto che si sforzava di alzarsi, Legree con un sorriso bestiale gli disse: «Che è? Che non sei vispo stamani? Avresti per caso preso un reuma stanotte, Tom?» A Tom, che era finalmente riuscito di alzarsi e si teneva in piedi al cospetto del suo padrone, con ferma e serena fronte, brontolò Legree: «Ah, tu puoi reggerti in piedi?» esaminandolo per tutto il corpo. «Credo che non te ne abbiano date abbastanza. Ora in ginocchio, Tom, e chiedimi perdono della tua insolenza di ieri. Tom restò immobile. In ginocchio, cane! Urlò Legree dandogli un violento colpo di frusta. Padrone, non posso, rispose Tom. Io feci unicamente quel che io credevo ben fatto e farò sempre lo stesso quando l'occasione se ne presenti. No, io non commetterò mai crudeltà, qualunque cosa accada. Sì, ma ella, signorino mio, non sa quel che gliene può derivare. Ella crede di aver ricevuto qualche cosa, padrone Tom, ma è un niente, glielo dico io. È un niente. Di bestia, ti piacerebbe d'essere attaccata a un albero con un bel fuoco che ti scoppiettasse intorno? Non sarebbe questo un bel gioco, Tom? Padrone, rispose Tom, so che siete capace di fare cose terribili, ma... Soggiunse ergendosi della persona e congiungendo le mani. Quando avrete ucciso il corpo, nulla potrete fare di più. E poi, oh, poi vi è tutta l'eternità. L'eternità. Nel dire questa parola si sentì l'anima del povero nero agitata da un brivido profondo, ma rischiarata e rinvigorita a un tempo da una luce divina. Anche il malvagio gelo alludì, anche il malvagio gelò. All'udirla, come se lo avesse toccato il morso di uno scorpione. Legree digrignò i denti, ma la rabbia gli tolse di poter parlare. Tom, libero ormai da ogni timore, disse con voce ferma e sicura: Padrone Legree, poiché mi avete comprato, io sarò per voi uno schiavo fedele, vi darò tutto il lavoro delle mie mani. Tutte le mie forze, tutto il mio tempo, ma la mia anima, oh, io non la darò ad alcun uomo, resterò unito al Signore e anteporrò i Suoi comandamenti ad ogni cosa, che io viva o che io muoia. Potete esserne certo, padrone Legree, io non temo la morte. Mi è uguale il vivere o no, fatemi frustare, morir di fame, bruciare vivo, con ciò mi invierete più presto dove desidero di andare. Ah, ma ti farò prima cedere, rispose Legree con rabbia. Io avrò soccorso, replicò Tom. Voi non la vincerete. E chi diavolo verrà in tuo soccorso? Disse Legree con accento di disprezzo. Il Signore Onnipotente, rispose Tom. Che tu sia dannato! Esclamò Legree e percotendolo col pugno lo gettò a terra. In quell'istante una mano fredda e morbida si posò sopra Legree e gli si voltò. Era la mano di Cassie. Siete pazzo? Disse Cassie in francese. Lasciate in pace quest'uomo, lasciate che io lo rimetta in stato da venire al campo di nuovo. Forse non è come vi dissi io? Ebbene, fa come tu vuoi, disse egli con aria burbera a Cassie. E tu, ascoltami bene, disse poi a Tom. Non voglio più indugiarmi con te ora, perché il lavoro è troppo urgente e io ho bisogno di tutti i miei servi, ma sappi che non dimentico mai. Lo scriverò sul tuo conto e una volta o l'altra me ne ripagherò sulla tua vecchia pelle nera. Pensaci. Legree voltò le spalle e si allontanò. Va, esclamò Cassie guardandolo trucemente. Ma verrà anche il giorno in cui tu avrai da renderne conto. Mio povero Tom, come vi sentite? Il Signore Iddio mandò il suo angelo e chiuse per questa volta la bocca del leone? Rispose Tom. Per questa volta è vero, replicò Cassie, ma ora che colui ha cominciato a perseguitarvi, vi terrà dietro giorno per giorno, sospeso come un cane alla vostra gola, suggendo il vostro sangue, succhiandolo tutto a goccia a goccia. Io lo conosco purtroppo.